Italia in controluce. Benvenuti in una nuova puntata di Italia in controluce, il programma di Radio 24 sulla cronaca, la politica, il costume, lo spettacolo, condotto e coordinato da Daniele Biacchessi. Le primarie rappresentano la più importante novità della politica italiana. Altrove, come negli Stati Uniti, scegliere la nuova dirigenza politica attraverso una scelta libera tra candidati è segno di avanzata democrazia. Per il centro-sinistra le primarie sono uno strumento scritto nello statuto di alcuni partiti, come ad esempio il Partito Democratico. Ma l'opposizione vuole davvero le primarie? Cos'è cambiato dopo i 3 milioni di persone che nel 2008 scelsero Walter Veltroni come leader del PD e poi candidato sconfitto da Silvio Berlusconi alle elezioni politiche del 2008, Barbara D'Amico ha realizzato questo reportage di Italia in controluce tra i militanti del Partito Democratico di SEL, di Nichi Vendola, di Italia dei Valori, di Antonio Di Pietro. Tutto ha inizio a Vasto, durante la festa dell'Italia dei Valori, conclusasi il 18 settembre. Il partito di Antonio Di Pietro invita nella città abruzzese anche Pierluigi Bersani e Nichi Vendola. Il leader del Partito Democratico prima rifiuta, poi accetta l'invito. Anche Sinistra Ecologia e Libertà partecipa e il segnale lanciato sembra inequivocabile. Necessario ricorrere alle primarie per designare una figura espressione di una rinnovata forza politica e forse di un nuovo governo. E c'è chi già parla di una nuova coalizione, forse della rinascita dell'Ulivo, ma la base del centro-sinistra cosa ne pensa? Mi sembra una buffonata italiana, le primarie. PD deve capire quel che vuol fare intanto. Con noi dobbiamo capire che dobbiamo fare noi delle TV, ma il PD in prima persona, anche perché è un partito più grande, è un partito più, no, in qualche modo più strutturato, fino a che non si delinea anche nel loro partito una linea ben precisa, io non credo che si possa fare progetti. Sì, adesso c'è Bersani che si è ripreso un po', però insomma non lo so, all'interno del PD sono tante correnze, sono tante derive, insomma. Il PD è una forza che vuole essere di attrazione, innanzitutto per gli elettori e poi per i partiti della coalizione. Il fatto di rafforzare il nostro rapporto di alleanza con Di Pietro, che in alcuni momenti era stato un po' inclinato, e anche con SEL, in particolare con Vendola, che in alcuni momenti sembrava contrapposto al Partito Democratico, è positivo. Le primarie sono un grandissimo strumento, i cittadini devono poter capire qual è lo schieramento che noi contrapponiamo a quello di centrodestra. Dobbiamo tenere le porte aperte sempre ad altre forze. Io vedo bene il fatto che la nostra coalizione si rafforzi e ribadisca la volontà di stare insieme. Nessuna forza di centrosinistra va comunque da nessuna parte senza il PD. Penso che non risolvano comunque i problemi, però diciamo che possono veramente tassare il polso. Credo che i problemi dell'Italia si risolvano solo se compattiamo la sinistra, o forse anche meglio il centro-sinistra. È evidente che nel progetto politico costituente del Partito Democratico c'è anche l'ambizione di essere un partito che abbia un'ampiezza, una solidità e un perimetro culturale da poter essere baricentro. Per sua stessa natura, mi verrebbe da dire, il Partito Democratico può risultare ingombrante. Sono un estimatore e apprezzo molto l'iniziativa referendaria che porti alla raccolta delle firme per cambiare la legge elettorale. Porcellum e primarie, diciamo, sono due linguaggi che non vanno d'accordo. Ad avvantaggiarsi della coalizione potrebbe essere proprio SEL, il partito di Vendola eclissatosi negli ultimi mesi, quelli più difficili per la politica italiana. A me colpisce il silenzio assordante di SEL in questi due mesi estivi di disastro, in cui non c'è una proposta di controfinanziaria, non c'è una proposta scritta di politica fiscale, non c'è una proposta sulle politiche economiche del lavoro. Non la chiamerei comunella, la chiamerei l'unica cosa sensata da fare. Rifondare il centro-sinistra è l'unica cosa utile alla sinistra. È stata sbagliata la scelta del 2008 del Partito Democratico di dire noi corriamo da soli, ha prodotto il risultato di perdere le elezioni politiche e di estromettere la sinistra dal Parlamento. La gente, gli italiani, la sinistra di questo paese non vuole farsi sentire dire che il centro-sinistra fa schifo, lo rivuole. Facciamo delle proposte. Mi ricorda tanto la vecchia vecchia unione di Prodi in cui si unisce tutto e il contrario di tutto. Sono partiti che su qualunque tema rilevante per il nostro paese si dividono e si scannano un giorno sì e l'altro anche, pur di battere Berlusconi improvvisamente trovano una coesione elettorale che si squaglia un minuto dopo la campagna elettorale, un minuto dopo le elezioni. Anche il centrodestra ventila l'ipotesi primarie, che però sembrano piacere solo al PDL, preoccupato dei corteggiamenti del PD all'UDC di Casini e infastidito dalla voglia di indipendenza della Lega. Io appartengo al movimento La Lega, che ha tutta una sua dinamica particolare, non siamo più un movimento che un partito. Il tema primarie per noi è un argomento che esula dagli schemi di cui abbiamo sentito parlare, in particolare della sinistra, quindi siamo più interessati agli obiettivi, al nostro territorio e all'operatività delle persone, e quindi dobbiamo pensare di fare grandi riforme nelle quali le primarie, voglio dire, contano veramente poco. Io sono favorevolissimo, nel senso che da più parti si rivendica l'esigenza di quello che è stato definito un bagno di democrazia, cioè che i dirigenti locali, anche del Popolo della Libertà o comunque i candidati alle elezioni comunali, provinciali o regionali del Popolo della Libertà siano scelti quantomeno dalla base. Le primarie sono lo strumento più efficace per dar loro voce, non vedo però alcun rischio per quanto riguarda la leadership del Popolo della Libertà nell'ottica nell'area del centrodestra. Sono 15 anni che il centrodestra, inteso come Popolo della Libertà, prima Forza Italia e adesso Popolo della Libertà, si scontra dal punto di vista elettorale anche con, diciamo, gli amici della Lega piuttosto che adesso i concorrenti, diciamo, dell'UDC, e sempre abbiamo fatto il pieno di voti, siamo sempre il primo partito d'Italia, quindi non temiamo assolutamente il confronto elettorale, men che meno un confronto sulle primarie. Se da tempo Berlusconi prende più voti di Bossi, quindi della Lega Nord, giusto per semplificarla, vuol dire che i cittadini preferiscono un centrodestra a guida berlusconiana piuttosto che un centrodestra a guida leghista o terzo polo UDC. Mi pare che sia da accettare questa linea delle primarie, ecco. Naturalmente nelle condizioni in cui ora il centrodestra, voglio dire, l'UDC non parteciperebbe. Per quanto riguarda la questione nazionale, l'UDC chiede un passo indietro di Berlusconi e chiede un governo di larghe intese per affrontare l'emergenza economica che c'è, e Berlusconi invece sta lì inamovibile, è lui, è sempre lui. Questo ha messo lì Alfano, ma ce l'ha messo a far cosa? A fare quello che vuole lui. Mi pare che sia un metodo democratico ben fatto in America, mal fatto in Italia. Ho paura che se si incanala il PDL su questa strada, il risultato potrà essere più una finta democrazia. Per il PDL è un'occasione per restituire un po' più di democrazia nel coinvolgimento della base, poi magari che non è proprio base, cioè qui bisogna restituire la democrazia agli elettori attraverso le preferenze. Barbara D'Amico, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Era la seconda edizione di Italia in Controluce. Vi ricordo, su Facebook trovate la nostra pagina e anche il gruppo dove potete richiedere la vostra iscrizione, ce ne sono già alcune migliaia. Twitter, anche lì abbiamo la possibilità di inserire tutti i giorni temi di questo programma, oppure se avete qualche domanda specifica abbiamo la mail controluceradio24.it. torniamo domani alle 6:30 su Radio 24 con la pillola di Italia in Controluce legata ai temi di stretta attualità.